È un trattato tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, negoziato per tutta la durata quasi degli anni Ottanta e arrivato finalmente alla firma l'8 dicembre del 1987, quando era presidente Reagan. Quindi Reagan e Gorbaciov hanno firmato questo trattato che garantiva la rimozione e lo smantellamento con verifica internazionale di tutti i missili, sia con armi nucleari che con armi convenzionali di raggio corto e intermedio. Corto significa un missile che può andare da 500 a 1000 km di distanza e intermedio fino a 5500 km di distanza. Quindi non erano tutti in fondo fuorché i missili intercontinentali. Erano gli strumenti della guerra in Europa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Erano gli strumenti della guerra fredda. Il momento in cui questi sono stati rimossi, eliminati, e questo è stato fatto davvero con verifica internazionale, non è che hanno fatto finta di rimuovere questi missili. In Italia erano i Cruise, per esempio, in Sicilia. In Germania erano i Pershing, che andavano contro gli SS-20 sovietici. Questo veramente è ciò che ha portato alla fine della guerra fredda. È una cosa importantissima, ma che è assodata, non è un accordino che poi si torna indietro sulle parole. Ecco, per questo in un certo senso siamo qua tutti che pensiamo alle dichiarazioni di Trump della settimana scorsa, ma pensiamo anche che sono un po' le solite battute di questo uomo che non ha senso della serietà delle cose. Tra l'altro ci stiamo avvicinando alle elezioni di medio termine, quindi forse è rientrato in campagna elettorale e dovuto rialzare il range, diciamo, delle... Penso di sì, credo che questo c'entri di sicuro, e forse sta parlando anche a suocera perché moglie intenda, e quindi sta parlando anche alla Cina in un certo senso. Tuttavia, specialmente per le persone come me che si ricordano ancora la guerra fredda, fa venire i brividi. E noi abbiamo gestito dalla Federazione degli Scienziati Atomici Statunitensi un apparecchio, che è una struttura, un principio per così dire, non è una cosa fisica, che si chiama l'orologio dell'apocalisse, dove questi scienziati ogni anno valutano qual è la situazione della sicurezza del futuro dell'umanità in fondo, e dicono quanto manca alla mezzanotte dell'apocalisse, e siamo arrivati a un limite bassissimo, siamo solo a 2 minuti da mezzanotte, e se davvero saltasse l'accordo INF, noi lo chiamiamo così, Intermediate Nuclear Forces, se saltasse questo accordo qua non basterebbero più i minuti, saremmo oltre la mezzanotte. Quindi le conseguenze potrebbero essere tante, ma è anche vero che in questi 30 e passa anni dalla fine della guerra fredda il ruolo dell'Europa è completamente cambiato. Abbiamo una forza assai superiore in una Germania riunita. Ricordiamoci che 31 anni fa c'era la Germania Ovest e la Germania Est, era molto diversa la situazione. Anche se in teoria, stracciando il trattato, gli Stati Uniti potrebbero decidere di rimettere i missili a raggio intermedio in Europa dove stavano prima, non ci sono più, li dovrebbero ricostruire tra l'altro perché sono stati smantellati, io credo che la Germania di certo direbbe no grazie, non li vogliamo. È possibile che alcuni altri paesi che sono molto guerrafondai nei confronti della Russia, come la Polonia, le Repubbliche Baltiche, la Romania, è possibile che loro dicano beh dateceli, noi non li prendiamo, non so, io credo che questi siano scenari lontanissimi, veramente lontanissimi. Ricordiamoci per esempio che solo un anno fa Trump faceva a chi aveva il bottone nucleare più grosso con Kim Jong-un, e poi poche settimane dopo ci sono stati l'incontro di Singapore, c'è stato a giugno quest'anno, e Trump continua a dire con Kim Jong-un è sbocciato un amore. Insomma, io credo che magari anche con l'orso Putin, dopo questa sparata, sia il momento per far la pace e che sbocci l'amore. Trump poi ha svolto questo ruolo per cui addirittura si è proposto di candidarlo al Nobel per la pace. No, lui si è proposto di candidarsi. sì. Come va interpretata a un livello di relazioni internazionali anche questa figura di Trump, che da una parte si propone in questo modo per le, appunto per il Nobel per la pace addirittura, e dall'altra poi vorrebbe smantellare il più importante, direi, accordo sul nucleare dai tempi della Guerra Fredda? Ma credo che tu l'abbia detto all'inizio, quando hai detto ci avviciniamo alle elezioni di medio termine. Credo che lui sia una persona non proprio stabile, per non essere troppo offensiva, ma che comunque legge soprattutto i tweet delle campagne elettorali locali e si adegua a quelle, trova il modo per essere sempre lui sulla prima pagina, sulla bocca delle ultime sparate, ecco. Ti devo dire una cosa, che però ho seguito un po' da vicino la situazione delle due Coree, e nonostante Trump, io credo che il processo di pace tra le due Coree stia andando avanti, e bene. E davvero, e Trump non lo ha ostacolato con le sue sparate, paradossalmente non lo ha ostacolato nemmeno con il suo voler bene a Kim Jong-un. Io credo che lì c'è un popolo, in particolare nella Corea del Sud, che è determinato ad andare avanti con la riconciliazione con il popolo della Corea del Nord. Abbiamo fatto degli incontri con la gente, con le associazioni, i movimenti sociali della Corea del Sud, e sono gasatissimi e entusiasti. Un premio Nobel per la pace ci starebbe proprio, ma per il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in.